e Stefano che balla da solo, magari no, va bene, ok, sveliamo le carte. Clizia Ornato è un artista che crea gioielli che sono molto particolari, perché vanno a recuperare elementi che non sono classicamente intesi come gioielli, giusto? Sì, ecco. La ricerca parte proprio dai materiali, quindi in base ai materiali più disparati dipende da quello che mi suggeriscono queste suggestioni e nascono i veri e propri gioielli. Se non ricordo, la volta che eri venuta stavi lanciando una collezione in relazione al Giappone. Sì. Per esempio, in quella collezione il primo gioiello è nato da una lettera che ho ricevuto dal Giappone. Mm-hmm. E il francobollo era meraviglioso, e quindi è nato un bracciale che è stato poi il primo che portavo io. E poi durante un viaggio in treno mi sono messa a chiacchierare con una persona davanti che ho scoperto essere una redattrice di Glamour, e quindi lo pubblicò, e da lì, dal 2003, mi chiamarono altre riviste, negozi, clienti privati. Il cosiddetto quindi... colpo di culo. Esatto, no. di merito. Colpo sì. Di connessione cosmica e coxica, per cortesia. Buona questa, me la sposo, dice il nostro Oscar Moroni. Ah, non lo so, Oscar. Qua bisognerà. Qua mettiti in fila, perché non è che le nostre ospitesse siano tutte pronte, disponibili. Sì, abbiamo la colonna portante degli ascoltatori coxici, che si chiama Fugifo da Vicenza, ora si chiama Orchestra, è diventato un'orchestra, Orchestra Moroni, che segue il cox con molta passione perché si innamora delle ospiti. Ah, quindi non lo devo prendere come un complimento, si innamora di tutte. No, ma tutte le ospitesse del cox sono delle gran, giusto Stefano? Giusto. Ok, c'è la preselection. Sì, c'è la preselection, giusto. Che io prima faccio vedere le foto a Stefano, se pensa che possano andare bene per... L'ha fatto dire a Google. E vabbè, insomma. Come in spagnolo? Polluelos, gnocche. Non saprei. Vabbè, insomma. Comunque, tu potresti essere interessata? All'orchestra? Ah, all'orchestra. Facciamo magari... la preselection. Anche voi. magari. No, perché magari potrebbe venire a suonare in uno dei tuoi prossimi eventi. Perché. Ok, Clizia è un'artista dei gioielli, li produce, li diffonde nel mondo, ma è qui in particolare per parlare di un'altra sua espressione corale artistica, diciamo, no? Perché raccogliendo la tradizione delle maison d'artiste, dei... non so... soprattutto in Brasile c'è raccontami un po'. L'idea di usufruire delle case degli artisti come delle sale per l'arte. Mm-hmm. E non solo ovviamente Brasile, ma anche a Parigi c'è una delle case più famose, dove appunto gli oggetti sono in vendita ma sono anche in esposizione in ogni luogo della casa, quindi nelle stanze, nella cucina, nel bagno, nel corridoio, quindi si fonde un po' questo tipo l'ambiente. Io vengo e tu mi offri un tè, poi vado al bagno, vedo un bel asciugamano ricamato e dico non è che me lo posso portare a casa. Esatto, è un po' un percorrere un misto di strade tra il privato e il pubblico. Sì, che in qualche modo, bene o male, un artista diciamo abita il proprio spazio, che è il luogo in cui vengono a declinarsi le creazioni stesse. In qualche modo, molto spesso capita che lo studio e la casa coincidano e alla fine entrare nello spazio a fruire, vedere gli oggetti è forse anche il modo più completo per riuscire ad avvicinarsi al messaggio artistico dell'artista in questione. È proprio questo, perché ho visto che comunque la mia è una realtà di questo tipo, la casa coincide con lo studio e con lo showroom. Mm-hmm. E vedo che i clienti che vengono sono affascinati da questo angolo di Bologna che è tutto da scoprire e rivela sorprese al suo interno. E quindi ho pensato, oltre a esporre i miei gioielli in modo temporaneo, costante, di creare degli eventi ciclici per invitare altri artisti del territorio affermati che possano coinvolgere in una maniera un pochino più familiare e anche dinamica e fresca i loro clienti, in modo da creare una rete sia tra gli artisti sia tra le opere d'arte e con il pubblico stesso. Ste reti, se non nascono a Bologna, dove nascono ste reti? Bologna è il centro del mondo. Non lo so, a Parma? A Parma? Parma un po' più in là. Sì, è meno crocevia. È abbastanza un po' meno crocevia. Non c'è neanche l'università più antica d'Europa. O del mondo. Niente. Però sembra che non sia poi del mondo. Ok. Sono Serena Brami e ascolto Coxo Spaziale. Che bella voce che c'ha, Brami. Certo. È una gran cantante. È ora di una canzoncina? Sì, dai. Non di Serena Brami, ahimè, ma così, non so, si chiamano The Machine. Creatività generica. Mica tanto generica, qua ci sono delle specificità. Delle specificità creative. Sì, e infatti in questo... Scusate, mi è scappato. Capita così. Succede nelle migliori famiglie. L'altra parte del coxo. No, che appunto mi chiedeva Crizia, coxo, no? Da dove? Allora io l'ho googolato, indovina un po'. Che cosa hai scoperto? Che abbiamo sbagliato tutto. Coxo viene fuori come Coxo Medical Instrument, CEO. Corporation, quindi forse. Poi c'è la Coxotech. La Coxoteca. Siete voi. No. Poi c'è sempre la Coxo Home Facebook. E poi c'è uno che potrebbe dare un pochino di adito a qualcosa, che infatti è un link che dice dei poliambulatori Oberdan, che dice: conosciamogli meglio l'articolazione dell'anca coxofemorale. È questa l'ispirazione che abbiamo avuto noi. Magari. Anche qui ci sono delle specificità. Sì, anatomiche. No, va bene, ma poi per il secondo step della genesi del nome di questa trasmissione magari ci risentiamo nelle prossime puntate. Ora ritornerei un pochino a concentrarmi della nostra super mega galattica ospitessa che è ritornata a trovarci dopo un bel po' di Un bel po' di tempo, infatti. È passato così tanto tempo che niente. Che siamo curiosissimi di sapere appunto questa 3 3 3 180 94 94, per sapere quello che vogliamo sapere. Se qualcuno vuole sapere qualcosa che noi non vogliamo sapere, oppure qualcosa vuole dirci qualcosa che magari non vogliamo sapere, tipo i commenti di fammi vedere che cosa è. No, ho paura. Ma metti i pinguini. Mi ha scritto solo metti i pinguini, poi con qualche offesa, ma vabbè, quelle non Si coxano, quelle no. Bene, ciao Moroni, grazie per il tuo prezioso contributo. Io invece vorrei tornare, visto che ce l'ho qui dopo tanto tempo, che questa mi gira, mi va, torna a destra, manca, non la si brinca mai, l'ho brincata oggi. Che verbo è brincare? Scusa il... Forse è un venetismo. Ah? Chiedi a Moroni, okay, chatta con lui. su cos'è la prossima? Cioè io so una cosa che non tutti sanno. Io so che ci sarà un evento prossimo, imminente in questa Maison d'Artiste, però ne parliamo dopo. Al momento io volevo mi chiedevo, ma esporrai una nuova collezione, presenterai una nuova collezione o su cosa stai lavorando ultimamente? Allora, il lavoro è costante, quindi ci sono sempre delle novità all'interno delle collezioni che ovviamente si evolvono negli anni. Quindi adesso ho studiato una casetta dentro la casa. Quindi per esporre i gioielli ho studiato un espositore che riproduce la mia casa e nello stesso tempo ma espone i gioielli. Ma proprio uguale alla casa? Molto simile. Ma dai! Molto simile. E quindi c'è anche tipo un lampadario mobile su quale sono attaccati i baciamano, tutti i dettagli, le lucine, e sembrano un po' dei gioielli viventi nella loro casa. E quindi sì, tutti doppiamente benvenuti. E le collezioni sulle quali sto lavorando sono sempre quella in filigrana, e ho fatto nuovi modelli di baciamano, che è il gioiello che sto vendendo di più attualmente, più richiesto. Per chi non sapesse, baciamano è praticamente un decoro della mano che ha una catenina che parte dal dito e poi si collega al polso con un decoro centrale che sta sul dorso della mano. Poi possiamo fotografare quello che stai indossando ora? Certo. Ricordiamoci, perché domani su www.coxospaziale.blogspot.com potrete riascoltare questa puntata arricchita dei contenuti multimediali. E anche i link di tutte le call che già altra anticipazione vi proporremo per questo coxo. Quindi filigrana, che sono questi lavori che fai quindi su questo materiale, giusto? Sì, è l'argento lavorato, battuto proprio tra i legni come si faceva in antichità e saldato come se fosse un pizzo, e proprio l'ispirazione è quella del pizzo al tombolo. Quindi in alcuni casi viene proprio inserito il pizzo di seta all'interno, e in altri casi c'è solo l'argento fuori che continua l'architettura del filo di seta. Quindi è un lavoro estremamente delicato che va a recuperare saperi artigianali. Sì, saperi antichissimi che vengono resi in veste contemporanea, quindi questo è un po' l'intento del mio lavoro. Questo tipo di gioiello è anche abbastanza, direi, age, nel senso... Oh sì, il baciamano antichissimo, e tra l'altro anche questo ha fatto il giro del mondo, nel senso che si trova sia in Arabia sia in India. Noi l'avevamo molto un diffuso. Po' perso. Eh sì, in Italia è raro, sì. E grazie a te sta tornando. Hai capito, Lu? Stavo guardando i tuoi gioielli online. Ti piacciono? Sì. Ecco, bene. Vuoi il baciamano? Sì. Per essere più sul pezzo nella radio? Per sua moglie. Sì. Giusto. Sì. Sì. Sì. Comunque il mio obiettivo sarebbe veramente vendere baciamano anche un uomo. Non ce l'ho ancora fatta. Quindi se Stefano sei... Oppure Moroni. Penso. Oppure l'orchestra. Un baciamano per Oscar Moroni lo vedo piuttosto. Baciamano non limit. Anche i cosi, i braccialetti non mi dispiacciono. I bracciali, quelli sono unisex, quelli sì, li sono belli. E quindi di fianco alla filigrana? Di fianco alla filigrana c'è sempre questa collezione giapponese, coi tessuti di kimono per le collane, coi francobolli di cui parlavo prima. E ho fatto una nuova serie con i francobolli su pelle bronzo, oro, platino e argento, bellissimi. Non vedo l'ora di venire a vederli, non riesco neanche a immaginarmeli. Si vendono online, sta vendendo Pasquini? Questi sono nuovissimi che ancora non sono neanche stati quasi fotografati, quindi in anteprima per l'evento. Tomo! Dice Oscar Moroni che se lo compra lui il baciamano. Ottimo, grande! Abbiamo venduto un baciamano a un uomo. Vai, obiettivo 2019 giusto in estremi. Raggiunto. Perfetto. Ma ok, quindi, ma quanto grande è questa casetta nella casetta? La casetta nella casetta sarà un metro per un metro e mezzo, però il tutto è su un tavolo di 2-3 metri con tutte delle luci studiate apposta. C'è il giardino e anche il caravan. Alla faccia! C'è tutto. Ma quindi ci sono anche dei gioielli da caravan, poi ci sono gioielli da camera da letto, tutti, quelli. Tutti. No, che meraviglia. Sì. Una mi foto sono di divertiti. Quella, ce la passo, certo, ce la va bene, poi. Va bene, dai, va grazie, bene, grazie, va grazie, bene. Grazie, contenuti multimediali. Un sacco di contenuti multimediali domani sul nostro blog, che riusciamo a pubblicarlo per domani, pensi? Sì. Certo. Dice un sacco di sì a questa puntata. Deve essere il 281, è un buon segno. No, è che c'ho male a un dente, allora. Questa bella energia di Pasquini che esatto. Non stai neanche pompando su Google, mi sembra. Come? Non stai neanche pompando su Google Translate, no, a sto giro. Stavo leggendo gli insulti che mi arrivano da Oscar Moroni. Molto interessante. Grazie per la partecipazione. No, figuriamoci. A questo punto sì. Io non vorrei anticipare troppi dei temi che andremo a riprendere nella seconda parte della puntata, perché sento avvicinarsi le puntate della le pubblicità della mezza, e quindi ho tutto questo momento. Le senti avvicinare 5 minuti in anticipo? Ma no, solo ne mancano 2 e mezzo di qua. Vabbè, c'hai degli orologi, se vuoi guarda, le partiamo adesso e non ci pensiamo più. Vorresti fare così, cara? No, partiamole tra un minuto. Ok. Che così mi sembra. Suspense. Cosa facciamo per questo minuto? Io scaverei ancora un pochino, visto che ce l'ho qui vicina, nelle origini di questi due filoni produttivi. Sì. Perché abbiamo capito che tutto parte dal francobollo giapponese. Scaviamo nel passato scabroso della Clizia Ornato. In un cassetto era celato un francobollo. Allora, in realtà il baciamano quando l'hai recuperata come idea, come tradizione, come... Il baciamano nasce secondo me 2 o 3 anni fa all'interno della collezione in filigrana. E perché era così, cioè è una cosa così raffinata e leggera, che è proprio un dettaglio che secondo me si nota e non si nota, però è anche molto comoda da portare, io non li tolgo mai per esempio. È noto che cioè, comunicano in una maniera incredibile. Si autovendono, sono il prodotto perfetto. Sì, cioè, l'ha visto pure Pasquini. No, è veramente una cosa che passa parola col fatto che sono molto comodi e non si tolgono mai. E ci sono un sacco di persone che quasi ogni giorno mi chiedono che lo vogliono perché l'hanno visto da qualcuno. E quindi l'idea di un gioiello che diventi proprio una seconda pelle, comodo e anche okay, che... Ok, quindi diciamo che il baciamano in realtà è... L'hai reincontrato tramite la filigrana che stavi già lavorando. Sì. E quindi in principio è stato probabilmente l'urgenza di recuperare l'artigianalità. Guarda, io rimango sempre un po' imbarazzata quando mi chiedono da dove nasce la passione, da dove nasce l'idea. Perché che è una bello, cosa talmente. Anch'io. Sì, perché è una cosa talmente naturale che io non saprei dire da dove nasce. Cioè, posso dire sì, l'ispirazione. E l'ho avuta cercando, cioè è però un intento, però questo è voler metterci della razionalità, mentre secondo me il baciamano è nato proprio disegnando, è uscito lui, non saprei come, cioè è stato abbastanza istintivo. Vuoi sentire i sapori e i profumi di una volta? Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Sempre più serio, sempre più serio quel coxo, te lo raccomando, Clizia, abbiamo fatto passi al gigante. Ma una cosa non è cambiata negli anni ed è sempre tale con lo stesso jingle. Dico bene, caro Pasquini? Che sarebbe? Come che sarebbe? Questo? Oh. L'angolo della menzione. Te lo ricordavi? Era proprio così, era lui. Confermo. Bene, allora comincio subito io. Mercoledì 18, dalle 18, Camere a sorpresa, in via Vizzani 8 a Bologna. Maison d'Artiste presenta Camere a sorpresa. Dal trend brasiliano di vivere abitazioni degli artisti come spazi culturali da condividere, ecco l'idea di questa esposizione collettiva. L'ho letto malissimo, però ne abbiamo parlato e ne continueremo poi a parlare meglio più tardi. Ingresso libero. Che faccio? Continuo io? Continui tu? Continuo io. Posso dire open call. Sì, perché ne abbiamo due di open call. In realtà poi tre, ma anche questi sono i segreti della seconda parte della puntata. Uh-huh. Collab 2020, open call for dancers. Dall'1/12/2019 al 26/1/2020, quindi un po' di tempo c'è ancora, a Bologna, Tel Aviv, Genova. Si svolgono da dicembre 2019 a gennaio 2020 le audizioni per accedere a Collab 2020, un progetto di danza contemporanea e teatro fisico rivolto a danzatori che abbiano concluso il loro percorso formativo. Il progetto si articola in due periodi. Uno, Research, un mese intensivo di training e ricerca coreografica. 2. Creation. Senti, questo l'hai letto proprio bene. Grazie, cara. 2 mesi, 2 creazioni inedite di Moalen de Philippines Dance Project e di Ted Stoffer. Mi sono emozionata che l'avevo letto bene prima e quindi. Tour finale in diversi teatri e spazi performativi. E se la linea non è caduta, perché è una danzatrice che è sempre in giro anche lei, forse abbiamo in linea Michal Muhalem. Sì, buonasera. Ciao, benvenuta al Coxo. Ciao, ciao. Allora, tu sei una dei coreografi che ha organizzato questo progetto, cioè che lo sta realizzando. Che cosa ci puoi raccontare in particolare? Ma stiamo curando questo progetto che per noi è un progetto molto importante, che volevamo fare già per tanti anni, ad offrire ai danzatori che finiscono la loro formazione e poi arrivano al passo del mondo della danza professionale, ma hanno difficoltà o non riescono ad entrare in questo mondo. Noi vogliamo creare un progetto per loro per aiutarli ad avere l'esperienza giusta per poter fare questo passaggio dal essere allievi o allievi anche con tanto talento, però senza esperienza, a diventare danzatori professionisti. E quindi alla fine Bologna, Tel Aviv, Genova, si viaggia un bel po' per fare queste audizioni. Poi come si svolgerà il periodo di training? Avete battezzato uno spazio, anche lì vi muoverete? Sì, no, il mezzo di ricerca sarebbe in uno spazio che è vicino a Bologna, a Pianoro, in uno spazio che non è una scuola di danza, diciamo, regolare, che ha un corso di formazione suo, ma un spazio più di arti marziali e di danza più creativa. È uno spazio molto bello che ci darà tanta ispirazione per fare il mese di ricerca. E da questo mese vogliamo scegliere un numero di danzatori per fare i 2 mesi di creazioni, che uno sarà di sicuro al Teatro della Tosse a Genova, perché loro ci danno una residenza creativa al loro teatro, con l'alloggio per i danzatori, e dunque ci sarà anche un'esperienza molto speciale. E dunque il periodo di creazione ci sarà lì, e anche i spettacoli dopo aver messo i due creazioni insieme in una serata intera, faremo spettacoli al Teatro della Tosse e anche altri venue che ancora li cerchiamo, però siamo sicuri che ci saranno altri teatri interessati di avere uno spettacolo di un odore internazionale, anche perché il coreografo Ted Stoffer è un coreografo americano che lavora a Bruxelles per tanti anni e è una persona con una qualità veramente speciale, che direi che tutti i danzatori avranno il piacere di incontrare. Speriamo che anche dentro il gruppo dei danzatori ci saranno danzatori internazionali, di sicuro di Israele, ma non solo. Ci sono tantissime persone interessate che ci scrivano, e dunque abbiamo buoni feedback. Sì, un buon feedback. Beh, Michal, io ti ringrazio tantissimo per aver arricchito la nostra puntata con la descrizione di questo progetto, e ovviamente ti invito a tenerci aggiornati quando cominceranno le prove lì a Pianoro, che è sempre nel territorio nostro, quindi noi del COXO vogliamo esserci. Sì, perfetto, grazie a voi che siete interessati in questo progetto. Grazie mille, ciao! Ciao. E da domani su www.coxospaziale.blogspot.com il link per approfondire, dove trovate tutto quello che serve per andare a sondare meglio il progetto, che mi sembra una grande figata. Avessi fatto io la formazione. E però c'è un'altra. C'è un'altra. Chi la legge? La leggi tu? La leggo io. Stavo leggendo i messaggi. Leggere a Clizia. Falla leggere a Clizia. La senti? Sì. Dai, vai. La parata tiberina degli inizi Roma. Aperte le selezioni per partecipare alla nuova performance di Andreco, in programma il 1 gennaio 2020 a Roma. Andreco, artista da sempre sensibile alle relazioni tra spazio urbano e paesaggio naturale e al rapporto tra arte, scienza e ambiente, presenta alla cittadinanza una parata che attraversa il cuore della capitale. Ah, lo stacco. No, per una volta che rifaccio il segnale senza dirgli au a Pasqua. Mi avevi dato istruzioni diverse prima. E comunque perché Andreco Roma a Bologna? Perché Andreco è un artista che, per quanto romano, è d'adozione bolognese, e in ogni caso i suoi performer vengono da tutto il mondo, quindi perché non anche da Bologna? Ecco. Un po' di questo, un po' di quello. Bene, ritorniamo nel vivo del 291esimo COXO. Ricapitoliamo, abbiamo come ospite in studio Clizia Ornato, super mega galattica ospitessa, che ritorna a parlarci, come abbiamo visto, di un evento che avrà luogo nella Maison d'Artiste, ormai confermata e acclamata, qui a Bologna, in via Vizzani, il 18. Mercoledì. 18 alle 18. Facile da ricordare. Facile, 19. Scaviamo nel passato scabroso della Clizia Ornato. No, quello l'abbiamo già fatto. Sì, okay. Era la parte prima. Nel futuro adesso. Sì, adesso scaviamo nel futuro, e se volete sapere del passato dovete andare da domani su www.coxospaziale.blogspot.com e riascoltarvi la prima parte del programma. Okay. Scaviamo nel futuro della Clizia Ornato. E voilà. Bravo, sempre sul pezzo Pasqua, grazie. Sì, ok. Quindi, Camere a sorpresa. Sì. E è il titolo della prossima apertura di questa casa d'artista. Sì. Nel senso che ci saranno varie nicchie, proprio stanze, dedicate ai vari artisti che esporranno. Quanti artisti? Questa volta, oltre a me, 3. Quindi facciamo... 4 in tutto. Vabbè, per fortuna la casa c'ha spazio, eh? Sì. Diciamo che è stata scelta proprio apposta perché si prestava a varie arti, sì. Ok, cominciamo a scavare nel futuro, come sì, ci ha detto sì, di sì, fare sì, Google. Sì. Allora, abbiamo lo scultore Alessandro Marangon, che ha esposto anche i 300 scalini quest'estate, e lui reinterpreta, facendo delle passeggiate, raccoglie nei boschi degli elementi naturali e gli dà nuova vita, creando queste opere dal forte impatto emotivo, quindi ci sono delle spine, ci sono delle, proprio dei tronchi, ci sono dei rami. Quindi sono sculture effimere, nel senso che sono fatte con materiali naturali. Non si sa se siamo più effimeri noi o le opere, ma il senso che il concept dell'opera sia proprio quello di farci interrogare anche sulla nostra fugacità di essere umani in relazione anche all'ambiente esterno e agli ambienti naturali. Puoi dirmi lui dove installa? Lo installa in sala, in sala, okay. Entrando a destra. Va bene. Sarà vicinissimo all'ingresso. E poi? Poi c'è le borse di Silent People, che è un creatore di Lugo, che reinterpreta vari tessuti, anche le forme delle scarpe, creando queste borse veramente spaziali. Un creatore di poche parole lui, giusto? Quanto pare. Silent People, adesso l'ho capita un po' dopo. Sì, di lui mi sono innamorata perché è venuta una cliente, Alessandra Pesci, che saluto, di Lugo, che anche lei ha un negozio dove vende i miei famosi bracciali coi francobolli, e aveva questa borsa che ho subito chiesto appunto da dove viene, perché aveva proprio lo stampo, diciamo, di una scarpa, ma non si capiva che era una scarpa dopo quando me l'ha spiegato. Ah, quindi una scarpa, diciamo, aperta e sì, appiattita. Sì, prima di essere costruita, non so il termine tecnico, confesso. Comunque, Glielo chiediamo martedì. Quindi questa pelle per fare una scarpa, che non è mai diventata una scarpa, ma è diventata una borsa. E poi vari altri inserti. Poi aveva una cerniera sul fondo che faceva una specie di sottofondo. Insomma, una borsa geniale. Che meraviglia. E quindi ho subito chiesto il contatto. Filippo è stato entusiasta nel partecipare. E quindi in cucina abbiamo Silent People. Ok. E poi underground. I famosi bracciali coi francobolli. Il jingle. Lo mettiamo in sottofondo anche mercoledì. E poi nel basement c'è Liliana Dalla con le sue pitture. Che qualcosa di più? E sono pitture abbastanza realistiche e rispecchiano una femminilità in emancipazione. Ok. E tu dove sei? Tu sei io nella sono casa? Sia nello showroom dove espongo abitualmente. Sì. Allora, diciamo che quando espongo solo i gioielli, i clienti passano dal giardino e accedono solo in showroom. Uh-huh. Invece, in occasione di questi eventi, passano proprio dalla porta d'ingresso di casa, che uso anch'io tutti i giorni, e entrano direttamente in sala. Quindi io avrò sia lo showroom sia un richiamo in sala con la famosa casetta nella casetta. Non vedo l'ora di vederla, casona. Non vedo l'ora di vederla, mamma mia. Ma c'è da mangiare? Certo, perché certo. Lui è un artista professionista, quindi va direttamente. Abbiamo il vino al di Oniris, che è buonissimo. Ottimo. L'ho scoperto Oniris. L'ho scoperto quest'estate al ristorante che c'è al DLF. Mi sono innamorata e ho preso delle casse di Oniris, che anche il nome mi piace. Sì. Ti fa fare dei bei sogni, esatto, no? Ad occhi aperti. E fai un po' di sorprese. Aspetta. Ma quello che volevo chiederti era quanto ci si mette ad organizzare? E poi sì, perché l'abbiamo anticipato, è una puntata di open call. Esatto, allora, sia per organizzare ci vuole un po', nel senso che si fanno le open call per selezionare gli artisti, che ovviamente devono essere un po' in risonanza tra di loro, non necessariamente, però avere un contenuto forte nelle loro opere ed essere ovviamente intenzionati a questo tipo di progetto. E quindi, tipo, in questa occasione come hai fatto ad incontrare, diciamo, sì, Silent nello specifico Silent People abbiamo pescato. Sandro Marangon era già stato un evento precedente e la pittrice è la mamma di una mia amica che andava in piscina con me. Ah, beh, ok. Proprio veramente il passato scabroso svelato. E comunque appunto lancio delle call e mi chiamano diversi artisti. Quando, ce ne sono quando già vai altri in piscina lanci delle call. Anche perché ovviamente poi tutti sono curiosi, sì. Vengono l'insegnante della piscina, Lisa, mia adorata insegnante, è venuta all'evento, ne ha parlato con le ragazze, quindi da lì è nato il link. E quindi adesso la prossima open call, il prossimo evento quindi sarà? Il prossimo evento sarà tra marzo e aprile. E per, forse uno a marzo e uno a aprile. E per proporsi, quindi ti si cerca tipo su Facebook? In, sì, in sì. Piscina bisogna. In piscina? In piscina ci verrà Moroni. Esatto. Gifo Stalker in piscina. Comunque sì, basta digitare Clizia Ornato su Google, esce il mio numero di telefono, o su Facebook, Messenger... chiamate qui in radio se vi rindirizza da me e quindi sì, e quindi tu raccogli le proposte e sulla base di quello che arriva metti insieme una continuità di tema per l'evento esatto, futuro. Esatto, dai 4 a 5 artisti per ogni edizione, sì. Ma le edizioni precedenti? Allora, la prima è stata nel novembre del 2017 con i cappelli di Yesei della mia amica Dana ed è stato un gran successo, e poi c'era anche gli appendini di Denise Ciccardi di Grimm & Maurius ed è stato molto bello, è stata la prima edizione, primo grande successo, e poi la cosa divertente è che ogni volta le opere degli artisti molto spesso rimangono anche in casa, quindi per esempio ho ancora 3 di quegli appendini della prima edizione nella mia sala, che saranno presenti anche loro a Maison d'Artiste. I cappelli di Dana li indosso praticamente ogni giorno, e quindi è anche bella questa continuità che poi si crea tra di noi. È un mondo vivo. Cioè, alla fine ti tieni tutto quello che... Esatto. Tutti quelli che inviti ti tieni tutto quello che... Ma posso fare anch'io la Maison d'Artiste? Come allora? No? Dai, Fedra. In qualità di quale... arte, perché so che tu sei un po' una performance. Devi scegliere, fai tutto. Falle fare una performance, dai. Lei ha già fatto una performance per i miei gioielli. Allora, vedi. È vero. Mamma mia, che ricordi. Ha danzato i miei gioielli. È stata l'ultima volta che ho ballato, forse. Oh mio Dio, pubblico. Che tra... No, dobbiamo... Dobbiamo mettere la sigla di Coxo Spaziale ora per farti ballare. Sì, una volta a settimana. Anche questa? Anche questa. Balliamo insieme, Pasquini. Balliamo. Un lento però, va bene lo stesso? Ecco, te pareva. Dai Fedra, cantaci un po' sopra. Non vedevo l'ora, grazie, basta. No, ci ballo sopra, alla fine. Ballaci, cantaci. Guarda come ballo. Che cos'è? Questa è Chiara Viola, si chiama Weird Lullaby. Ma ce l'ha mandata lei? Ce l'ha mandata l'ufficio stampa, la Francesca Crispello. Ma vedi il Cox però, eh? Vedi? Avete anche musicisti nei vostri eventi? Noi siamo aperti a tutto. Unica cosa che ovviamente bisogna creare un contenitore di attenzione, e in quei casi lì è molto dinamico, gente che va, gente che parla, che scopre, che gira. Però questa potrebbe essere una bellissima musica di sottofondo. Ottimo, questa sicuramente sì. Sì sì. Chiediamo il permesso a Chiara Viola. Ne sarà entusiasta. Dimmi, abbassiamo. Mi sa che il 291esimo Coxo sta per finendo. Sì, cosa potremmo ancora chiedere? Come potremmo ancora scavare nei meandri della Clizia Ornato? Basta, niente. Direi che il futuro è passato. Devo rispondere io? Te lo stavo chiedendo a te. Ah, ok. Che ti guardi in giro, ragione. A destra manca. No, mi aspettavo che qualcun altro rispondesse, però effettivamente c'era solo Cliff Ornato, per cui non avrebbe molto senso. E com'è che si chiamava sto il vino che ti fa fare il sogno? Oniris. È buono. Ma è bianco e rosso? Tutte e due. Ah, tutte e due. E da dove viene? Ah, adesso non è. Dal mondo dei sogni. Non mi ricordo più. Beh, fa un bel effetto, fa un bel effetto. No, allora, sicuramente dobbiamo tenerci ben chiaro in mente le 18 di mercoledì. 18. In via Vizzani, 8. Ah, pensavo 18 anche... No, no, no, ci 8, manca un non 1. 18. Non prendiamo l'8 per il 18, come diceva mio nonno. Esattamente. Aveva una grande lungimiranza. Esatto. Come si chiamava? Mio nonno, Gino. Gino Pasquino. Mm. No, Gino Tossani, è mio nonno materno. Ah, ok, ok. Si capisce. Capito? Sì, io mi sto confondendo, Stefano. Anch'io, senti. Comunque, aspetta, Ah, questa è la musica di sottofondo. Esatto. Aspetta che stavo cercando un altro... Non ce l'ho. Pensavo di avere un altro jingle, invece no, c'ho solo... Fallo tu. C'ho questo. Però non va. Però è un bel jingle, senti. Corso spaziale. È quello che hai messo all'inizio. È quello che ho messo prima, sì. Capito? Sì, ho capito. Comunque sì, stiamo coxeggiando per in conclusione della 291esima puntata. E non dovremo, perché dovremo rimanere appunto, bene sul pezzo. Rimaniamo sul pezzo. Focalizzarci su quanto detto sin qui e in particolare sull'evento di mercoledì. Dico bene? Tutti invitati. Tutti invitati. Benvenuti a scoprire i vari meandri della casa. Ma allora, quindi diciamo, è una casa privata. Sì. Dico bene. E il parcheggio com'è in quella zona? Il parcheggio ci sono le righe blu, che ma però comunque dopo le 18 non si pagano. Questo non garantisco, ma dipende, se sei dentro ai viali si pagano fino alle 20, se sei fuori dai viali. Siamo fuori dal viale. Allora siamo alla parallela pagano... di via Massarenti all'altezza del Bar Wolf. E dunque dopo le 18 gratuito. E voilà. Confermo. Poi seguire le candeline da un cancello nero a una porta. Ok, è già. Ma è molto evidente dalla Quante strada. Quante candeline? 18. Brava, insistiamo. E l'evento fino a quando? Fino alle 21. E celebriamo il tuo 18esimo compleanno, giusto, naturalmente. Fammi sentire beatbox. Sono ancora alle prime armi. Pizza che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza. Ma andrei avanti tutto il giorno. Pizza che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza. Io ordinerò una pizza quando tornerò a casa. Ti ha fatto venire fame. Sì, era Cinzia Chen, che salutiamo. Lei sta Cinzia Chen sta a Shanghai, però magari ci ascolta. Io allora colgo l'occasione per fare un piccolo excursus, perché è da tanti anni che io propongo a Stefano una puntata sui compleanni, lui me la boccia sempre, chissà perché, e allora io volevo cogliere l'occasione per compiere gli anni in questo giorno speciale, no, per augurare un buonissimo compleanno a tutte le meravigliose persone che compiono gli anni il 17 dicembre. Il 17? Che non è oggi, però è domani. Ah, indovina chi sarà. Cioè sei spaventosa proprio. Adesso GIF ha spento. Ma perché non compie gli anni 17 lui? Non credo. Poverino. Hai capito. E tu? E io lunedì prossimo. Pensa un po'. Tu li compi il 24 dicembre? 23. Che è lunedì prossimo. Beh, ma allora non hai di che lamentarti. Ma noi ci siamo lunedì prossimo? Io sicuramente no. Neanch'io. Allora il coxo conclude qui, quindi questo è il coxo di Natale. È il coxo di Natale. E dopo cosa facciamo? Il 30 ci sei tu? No. Torno apposta? Torna apposta, dai. E beh, cosa fai? Non torni. Pizza che c'ha pizza. Andiamo da Pizza Artist. Andiamo da Pizza Artist, che fra l'altro è al DLF dove lei ha trovato questo. No, ma questo la fantastico sorpresa l'avete svelata. No! Ma sì! No, ma allora ma che connection! Pizza connection! Sì! No, ma allora tutti gli stanzionisti mi sa che verranno da te, capitanate. Perché Pizza Artist era la sorpresa, l'avete letto nel mio nel tuo pensiero. Avete sì, scavato. Avete scavato. No, è che noi siamo dei fans di Pizza Artist. Non siete gli unici. Dai, fantastico. Hai capito. Perfetto, allora. Allora, così. Allora buona pizza a tutti. Esatto, dunque possiamo. Clizia. Perché anche loro giustamente. Omen nomen. Pizza Artist sono degli artisti. Grazie per l'aiuto con questa pizza che mi gira in testa. Le mie sinapsi non sono più quelle di una volta. Ringraziamo Clizia Ornato e concludiamo con le solite fantastiche parole del nostro ciao Fedora, buone feste, che ciao dire. Stefano, buone feste, ciao Clizia, ci vediamo mercoledì. Questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Che forse però non l'hai fatta salutare. Saluta, dai. Cioè. Ciao a tutti, ero rimasta un attimo così. Ciao a tutti, a mercoledì e buone feste. Auguri Pasqua. Ciao. Thank you.